100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Ci siamo lasciati alle spalle una settimana caldissima per i mercati finanziari, reduci da vendite generalizzate. Il fattore più rilevante di certo il tema petrolio, che continua a perdere terreno dal punto di vista delle quotazioni. Il WTI, il petrolio di riferimento americano, è scivolato a $37 al barile, livelli che non vedeva da 7 anni a questa parte, mentre il Brent europeo è arrivato sotto i $40. Le preoccupazioni sono tutte legate allo scenario di rallentamento economico, ma a contribuire alla flessione dei prezzi è stato l'OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori, che ha diffuso un report in cui ha spiegato che l'offerta di greggio sul mercato rimane abbondante, infatti è ai massimi da 3 anni, e ha anche annunciato che questo eccesso di produzione proseguirà probabilmente per tutto l'anno prossimo. Questa settimana, neanche a dirlo, i riflettori saranno completamente puntati verso Washington, dove è prevista la riunione della Federal Reserve, la banca centrale americana, che adotterà in tutta probabilità il primo rialzo dei tassi di interesse dal 2008. Sembra una mossa scontata per gran parte del mercato, anche se nei giorni scorsi il dollaro si è mosso in senso contrario alle attese e l'euro ha ripreso nettamente quota verso il biglietto verde, portandosi intorno a 1,10. Fra i temi italiani sotto i riflettori segnaliamo naturalmente tutta la forte tensione attorno al comparto bancario a seguito del dramma che si sta consumando per migliaia di risparmiatori bancari dopo il decreto salvabanche del governo. La Banca d'Italia ha proposto di vietare la vendita di prodotti complessi ai piccoli risparmiatori e intanto il governo è al lavoro sul fondo salva risparmi. Andando agli appuntamenti della settimana, Mario Draghi oggi parla a Bologna ad una conferenza di Prometeia. Dagli Stati Uniti, come dicevamo, arriva la decisione sui tassi dalla Federal Reserve. In Europa arriva l'IFO tedesco. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. L'inflazione resta sempre inchiodata poco sopra lo zero e ben 11 capoluoghi di provincia sono formalmente in deflazione, vale a dire nella condizione di prezzi continuamente calanti, perché i consumatori non fanno acquisti, non avendo fiducia nel futuro e aspettandosi quindi un ulteriore calo dei prezzi stessi. A novembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registrato dall'Istat è diminuito dello 0,4% sul mese precedente, registrando invece un aumento dello 0,1% su base annua, cioè sul novembre 2014. Ciò che conta, come spiega sempre l'Istat, è che per quest'anno la previsione di inflazione acquisita è a più 0,1%. In sostanza l'Italia è un paese dove l'economia ancora non gira come dovrebbe e i consumi non sono in ripartenza. A novembre ha pesato soprattutto l'arretramento nei servizi culturali e ricettivi e per la cura della persona, che sconta un crollo per alberghi e ristoranti. Sono in fase di decelerazione anche i prezzi dei beni alimentari non lavorati, cioè i prezzi delle materie prime alimentari. E sono ben 11, come si diceva, le città in deflazione, con tassi di incremento inferiori allo zero, sempre registrati a novembre. La riduzione più forte si registra a Bologna con un meno 0,7%, seguita da Padova meno 0,4%, da Palermo sempre meno 0,4% e da Catania meno 0,3%. Poi arrivano Perugia, Cagliari, Bari, Verona, Venezia, Modena e Aosta. Bolzano e Genova invece sono le città dove l'inflazione ha dato un modesto segnale di risveglio con un più 0,5% rispetto a novembre 2014. Seguono poi L'Aquila e Napoli. Insomma, non è ancora purtroppo la fotografia di un'Italia ripartita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.